Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tensione altissima in Israele e nei territori palestinesi dopo l'annuncio di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Due razzi sono stati lanciati da Gaza verso Israele, che ha risposto sparando colpi di tank verso postazioni di Hamas. 8 le persone indagate per il blitz di Forza Nuova ieri a Roma sotto la sede del quotidiano La Repubblica. Se qualcuno pensa che in un momento di incertezza politica ci possa essere spazio per infiltrare pratiche antidemocratiche, la risposta è semplice: non c'è aria, dice il ministro dell'Interno Marco Minniti. La democrazia non ammette guerra di idee. L'ordigno rudimentale esploso all'alba davanti alla stazione dei carabinieri di Roma a San Giovanni senza causare feriti. Gli anarchici del FAI rivendicano l'azione. Fa parte di una setta. Parlare così la madre del 27enne arrestato per omicidio volontario e tentato omicidio per la morte di tre familiari e l'avvelenamento di altri parenti a Nova Milanese. Nel computer trovati gli ordini della sostanza velenosa, il tallio. L'ho fatto per punire soggetti impuri, ha raccontato Mattia Del Zotto. E a Suzzara, in provincia di Mantova, una donna di 39 anni ha ucciso i figli di 5 e 2 anni, poi ha tentato di togliersi la vita. Sembra che in passato abbia sofferto di problemi psichici. Istat, record di occupati a termine nel terzo trimestre dell'anno, sono 2,8 milioni e il picco più alto dal 92. Disoccupazione stabile all'11,2% e diminuisce il numero degli scoraggiati, cioè di coloro che un lavoro neanche lo cercano perché sono sicuri di non trovarlo, 100.000 in meno in un anno. Gli ispettori del Ministero del Lavoro nella sede italiana di Amazon a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. L'intervento, si spiega, pianificato nell'ambito delle ispezioni nel settore della logistica e della movimentazione merci. L'Andrea Chenier di Umberto Giordano alla prima della Scala a Milano. Non ci sono le più alte cariche dello Stato per altri impegni. La sottosegretaria Boschi entra dal retro. E poi il calcio. Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese del Real Madrid, ha vinto il suo 5° pallone d'oro, eguagliando il record di Lionel Messi, argentino del Barcellona. Buffon si piazza al 4° posto. Eccole qua le notizie principali di questa edizione di Effetto Notte in compagnia di Maria Piera Ceci. Non c'è oggi Roberta Giordano, che si prende qualche giorno di vacanza, e allora ripartiamo con le notizie più importanti di questa giornata. Il giorno dopo l'intervento di Trump su Gerusalemme, giornata di scontri e feriti. Due razzi sono stati lanciati da Gaza verso Israele, che ha risposto sparando colpi di tank verso postazioni di Hamas. Iniziate in sordina nella mattinata, sono andate increscendo nel corso della giornata le manifestazioni annunciate dalla leadership palestinese in varie località della Cisgiordania, a Gerusalemme Est e a Gaza, in risposta alla dichiarazione del presidente americano Donald Trump su Gerusalemme capitale di Israele. 114, secondo fonti mediche palestinesi riportate dal quotidiano israeliano Mariv, è il numero dei feriti tra i dimostranti palestinesi negli scontri con l'esercito israeliano da Ramallah a Nablus, da Hebron a Betlemme. E proprio a Betlemme la tensione è stata più alta, quando centinaia di palestinesi hanno fronteggiato dozzine di agenti israeliani lungo un tratto di strada deserta. I manifestanti hanno lanciato pietre e incendiato gomme e le truppe israeliane, in tenuta antisommossa, hanno reagito con cannoni ad acqua e proiettili di gomma. Intanto l'esercito israeliano ha rafforzato le truppe schierate in Cisgiordania e ha messo in stato di allerta altre unità per far fronte a possibili sviluppi. In serata hanno poi suonato le sirene al sud di Israele, lungo la linea di demarcazione con la striscia, e la popolazione è corsa nei rifugi. Secondo il portavoce militare israeliano, due razzi sono stati lanciati dal nord di Gaza, ma sono caduti all'interno dell'enclave palestinese. Fabiana Magri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv. E ritroveremo fra poco Fabiana Magri per nuovi aggiornamenti e per un'analisi della situazione anche di Germania. Torneremo a parlare nel nostro approfondimento fra poco. Si va infatti verso una nuova grosse coalizione. Il congresso dell'SPD, i socialdemocratici tedeschi, ha accolto infatti la mozione per colloqui aperti con l'unione di Angela Merkel. In Italia ora, per parlare di dati sul lavoro e manovra. Governo battuto sulla manovra in commissione lavoro alla Camera. A mettere in difficoltà l'esecutivo sono stati due emendamenti, uno sulla riforma della governance INPS-INAIL e l'altro sulla richiesta di raddoppiare da 4 a 8 le mensilità che spettano al lavoratore in caso di licenziamento. Le proposte sono passate nonostante il parere contrario del governo e ora dovranno superare l'esame della commissione bilancio. Sul fronte lavoro, intanto, l'occupazione continua a crescere anche nel terzo trimestre dell'anno, grazie soprattutto ai dipendenti a tempo determinato che, certifica l'Istat, toccano il picco storico di 2,8 milioni, il livello più alto mai raggiunto in 24 anni, ossia dall'inizio della serie storica. E cresce anche il tasso di occupazione, rileva il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, anche se c'è sempre il rischio precarietà. Siamo arrivati a un tasso di occupazione del 58,1%, che è un record per gli ultimi anni in Italia, e abbiamo accumulato negli ultimi 9 mesi ulteriori nuovi 300.000 posti di lavoro. Nei 3 mesi estivi la disoccupazione è comunque rimasta ferma all'11,2% rispetto al trimestre precedente, mentre diminuisce di 0,4 punti su base annua. Fra i segnali positivi c'è il calo degli inattivi, a scendere sono soprattutto gli scoraggiati, 100.000 in meno fra i giovani, gli uomini e nel mezzogiorno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora sul dibattito a sinistra dopo il no di Pisapia. Non tutte le frittate riescono bene, a dirlo Romano Prodi, dopo lo strappo di Giuliano Pisapia. L'ex sindaco di Milano ha abbandonato l'idea di una coalizione di centro-sinistra dopo che il PD ha messo all'ultimo punto del calendario del Senato lo Ius Soli. Il professore è dispiaciuto, ma precisa. Non solo defezione, perché Pisapia non aveva deciso, aveva studiato il campo e poi ha concluso che non era cosa, voglio dire, come il tentativo che Fassino e io abbiamo fatto di incollare la situazione. La colla non ha funzionato e il processo va avanti, si tenterà di nuovo. Piero Fassino però viene incoraggiato dalle parole dell'ex leader dell'Ulivo. Il presidente Prodi accompagna con attenzione la costruzione di una coalizione, dice, incoraggiando a perseguire alleanze. Lo scopo è consentire al centro-sinistra di presentarsi agli elettori con una proposta credibile e capace di evitare che l'Italia possa essere preda della destra o del populismo. Più pessimista dalla minoranza Andrea Orlando. Questa frittata non è riuscita benissimo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo al caso Ilva. Il sindaco di Taranto: ritiri subito il ricorso o salta il tavolo, ha detto, ospite di Sebastiano Barisoni a Focus Economia, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. La convocazione con l'ordine condiviso è uscito ieri, mi aspetto che il ricorso venga ritirato immediatamente. Senza questo ritiro non si fa il tavolo. Questo è l'impegno, altrimenti il tavolo non si fa, o ci occuperemo di quei problemi, ma ci occuperemo senza un confronto che non può essere in parallelo nelle aule di tribunale, questo è certo. Il capitolo banche, l'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni sarà in audizione davanti alla commissione d'inchiesta il prossimo 20 dicembre. Lo riferisce la stessa commissione che stamane ha anche dato l'ok allo svolgimento in forma pubblica, con possibilità di secretare i lavori su richiesta, delle audizioni degli ex vertici delle banche venete Gianni Zonin, Vincenzo Consoli e Pietro Daguì. Intanto ci sono novità giudiziarie su MPS, vertici tutti assolti in appello sul caso Alexandria. Non c'è stato ostacolo alla vigilanza nel caso del derivato sottoscritto da MPS e Banca Nomura. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Firenze a proposito del caso giudiziario sul Monte dei Paschi di Siena, che ha visto come imputati l'ex presidente Giuseppe Mussari, l'ex DG Antonio Vigni e l'ex responsabile del settore finanziario Gianluca Baldassarri. In primo grado erano stati condannati a 3 anni e mezzo, poi la Procura Generale aveva chiesto 7 anni, ma i giudici hanno deciso l'assoluzione con formula piena perché il fatto non costituisce reato. Viene quindi smontata la tesi per cui la natura di derivato del prodotto finanziario Alexandria fosse stata occultata agli ispettori della Banca d'Italia dai vertici della banca senese. Mussari, Vigni e Baldassarri hanno intanto in corso un altro processo per aggiotaggio e falso in bilancio a Milano. Rimane quindi aperta la vicenda sulle modalità con cui fu acquisita Banca Antonveneta da MPS. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. annuncia lo sciopero della fame e delle cure l'ex parlamentare Marcello Dell'Utri dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato la richiesta di scarcerazione per motivi di salute. Preso atto della decisione del Tribunale che decide di lasciarmi morire in carcere, ha riferito agli avvocati Dell'Utri, ho deciso di farlo di mia volontà. A Roma, dove è arrivata la rivendicazione degli anarchici per l'esplosione dell'ordigno di stamattina davanti alla stazione dei Carabinieri San Giovanni a Roma. La rivendicazione è apparsa su un sito che fa riferimento a movimenti anarchici e la sua attendibilità è al vaglio degli investigatori. 8 indagati per il blitz di ieri davanti alla sede del quotidiano La Repubblica a Roma e arrivano i provvedimenti per gli skinheads in azione qualche giorno fa a Como. Fogli di via a Como, nuovi indagati a Roma. Alla vigilia della manifestazione antifascista di sabato e dopo il blitz di ieri davanti alla redazione di Repubblica, un unico filo nero unisce le azioni della procura Lariana e Capitolina. Dalle sponde del lago i magistrati hanno inviato forze dell'ordine nelle case di militanti del Veneto Fronte Skinheads, il gruppo con richiami neonazisti, protagonista dell'irruzione la settimana scorsa durante l'assemblea di ONG impegnate nell'accoglienza dei migranti. PC, tablet e supporti informatici sono stati sequestrati per verificare l'esistenza di un'eventuale strategia e pianificazione del blitz. Contemporaneamente la questura ha notificato a 10 indagati di altre città il foglio di via con divieto di ritorno per 3 anni a Como. Per 3 residenti nella città lariana invece l'avviso è stato solo orale. Nelle stesse ore a Roma 8 militanti di Forza Nuova, compreso un minorenne, sono stati identificati dalla Digos per il raduno a viso coperto con lanci di fumogeni all'ingresso della redazione di Repubblica. Se qualcuno pensa che in un momento di incertezza politica ci possa essere spazio per infiltrare pratiche antidemocratiche, avverte il ministro dell'Interno Marco Minniti, la risposta è semplice, non c'è aria. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora sentiamo gli sviluppi sulle morti per avvelenamento da taglio, famiglia avvelenata dal nipote. Mattia Delzotto, 27 anni, protagonista nel racconto della madre di una vera e propria discesa in una sorta di follia mistico-religiosa che si è dispiegata negli ultimi 3 anni. È lui, secondo gli inquirenti e le stesse ammissioni dell'arrestato, l'uomo che ha avvelenato 8 persone della sua famiglia, uccidendone 3, il nonno, la nonna e una zia, utilizzando solfato di tallio, che dunque non proveniva né dagli escrementi di piccione né da inquinamento ambientale, come ipotizzato inizialmente, ma da un'azienda chimica di Padova che Delzotto aveva contattato utilizzando un'email sotto falso nome. È grazie a questa, a una cartella delle bozze non cancellata, che si è riusciti ad arrivare a lui. Discesa verso la follia, si diceva, la madre racconta di una setta, di comportamenti cambiati, di un ragazzo che aveva iniziato a non bere più alcolici, ad eliminare tutte le cose superflue dalla sua stanza, a diventare un maniaco della pulizia, a non prendere più gli autobus perché, diceva, pieni di gente che bestemmia, a cambiare canale quando erano in onda spot pubblicitari ma col pulsante del TV perché non utilizzava il telecomando. Erano impuri e i genitori, per provare a curare i disturbi, si erano rivolti a una presunta esperta in terapie naturali e cromoterapia. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo invece è accaduto a Suzzara, in provincia di Mantova. Una donna di 39 anni ha ucciso i figli di 5 e 2 anni, poi ha tentato di togliersi la vita. Il padre nel frattempo era al lavoro. La donna sembra che in passato abbia sofferto di problemi psichici. Cambiamo decisamente argomento per parlare della prima della Scala, l'Andrea Chenier di Umberto Giordano. 10 minuti di applausi per una prima senza le più alte cariche dello Stato. Ma sentiamo il commento di Armando Torno, che domenica conduce su Radio 24 Musica Maestro alle 21.30. Dunque, la prima impressione è quella di un'opera ben riuscita. Il direttore sta tenendo molto bene l'orchestra in un'opera che non è facile e la compagnia di canto si sta facendo onore. Tutti avevano detto che Andrea Chenier era un tenore leggero, cioè questo interprete, però insomma si sta facendo onore. Certo, la Netrebko è molto brava e Yusif, per dire, Yusif Eviavzov sta comunque tenendo testa alla sua parte. Devo dire, molto bene le scene e molto buona la regia. L'unico difetto di questa prima è un po' l'assenza delle istituzioni. E quindi l'inno nazionale è stato leggermente sovrabbondante perché mancavano i presidenti per i quali di solito è suonato, però diciamo che è stato suonato per l'Italia e diciamo che la musica dell'inno nazionale, che è una marcetta ottocentesca, è diventata bella grazie a Shay. Per il resto vedremo, comunque è una prima ben riuscita, gradevole, torna l'opera vedista alla Scala e questo è un grande avvenimento. Ricordo che mancava la Scala da 32 anni di Andrea Chenier, ma mancava una prima vedista dal 63, quindi molti ascoltatori non erano ancora nati. E dalla prima della Scala al calcio, per l'Europa League Rijeka Milan finisce 2-0, Atalanta Olympique Lione 1-0, Lazio in campo in Belgio contro il Zulte Waregem. E Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese del Real Madrid, ha vinto il suo quinto pallone d'oro, eguagliando il record di Messi. Alle spalle del fuoriclasse del Real Madrid si è classificato proprio Messi, terzo posto per il brasiliano Neymar. Primo fuori dal podio Gianluigi Buffon, che si piazza al quarto posto. Il portiere bianconero è il migliore dei due italiani nel gruppo dei 30 nominati. L'altro, Leonardo Bonucci, è al 21esimo posto. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme per parlare di Gerusalemme. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tensione altissima in Israele e nei territori palestinesi dopo l'annuncio di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Due razzi sono stati lanciati da Gaza verso Israele, che ha risposto sparando colpi di tank verso postazioni di Hamas. 8 le persone indagate per il blitz di Forza Nuova ieri a Roma sotto la sede del quotidiano La Repubblica. Se qualcuno pensa che in un momento di incertezza politica ci possa essere spazio per infiltrare pratiche antidemocratiche, la risposta è semplice, dice il ministro dell'Interno Marco Minniti. Non c'è aria. L'ordigno rudimentale esploso all'alba davanti alla stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni senza causare feriti. Gli anarchici del FAI rivendicano l'azione. Fa parte di una setta, a parlare così la madre del 27enne arrestato per omicidio volontario e tentato omicidio per la morte di tre familiari e l'avvelenamento di altri parenti a Nova Milanese. Nel computer trovati gli ordini della sostanza velenosa, il tallio. E a Suzzara, in provincia di Mantova, una donna di 39 anni ha ucciso i figli di 5 e 2 anni, poi ha tentato di togliersi la vita. Sembra che in passato abbia sofferto di problemi psichici. E poi l'abbiamo sentito poco fa, Cristiano Ronaldo, l'attaccante portoghese del Real Madrid, ha vinto il suo quinto pallone d'oro, eguagliando il record di Lionel Messi. E torniamo dunque a parlare di quanto sta accadendo in Israele. C'era da immaginarselo che oggi sarebbe stata davvero una giornata complicata dopo l'annuncio di Trump di voler spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, e così naturalmente è stato. Torniamo a collegarci con Fabiana Magri, che si trova a Tel Aviv. Buonasera Fabiana. Sì, buonasera. Dicevamo, raccontaci questa giornata davvero molto molto complicata per Israele, per gli israeliani, anche per le zone palestinesi. Raccontaci dunque meglio com'è andata. Sì, dunque la giornata è stata piuttosto lunga, è iniziata un po' più in sordina questa mattina con una dimostrazione a Gerusalemme Est, alla porta di Damasco, fuori dalla città vecchia. Dimostrazione non eccessivamente partecipata, ma da quel momento in poi è stata un po' la miccia. Esatto. E peraltro le ultime parlano di colpi di razzi, no? Sì, la giornata infatti è terminata con sirene al sud di Israele per un lancio di due razzi da parte nord della striscia, che sono ad ogni modo ricaduti all'interno dell'enclave palestinese, ma da un lato la popolazione israeliana naturalmente ricorsa nei rifugi, e in risposta all'esercito israeliano, confermato da poco dal portavoce militare, ha risposto con un lancio di razzi con due tiri di tank, colpendo due postazioni terroristiche di all'interno Hamas. Della striscia. Mm. Sì. Fabiana, calata la notte, la situazione, diciamo, delle prossime ore dovrebbe essere leggermente più tranquilla con la notte, però che giornata ci dobbiamo aspettare domani secondo te? Domani sarà una giornata veramente difficile, perché dopo la preghiera sulla spianata delle moschee a Gerusalemme e in Cisgiordania ci si aspetta un ulteriore incremento degli scontri e delle manifestazioni. Sì, perché ricordiamo che il venerdì è sempre stata una giornata molto delicata. Certamente, tanto più che appunto il leader politico di Hamas oggi ha chiamato alla terza intifada contro l'occupazione e il nemico sionista e per la liberazione di Gerusalemme come appunto reazione ai fatti di ieri. Fabiana, ti ringraziamo, naturalmente continueremo a seguire queste vicende grazie anche alle tue corrispondenze, dunque ti lasciamo lavorare, grazie mille, ci risentiamo domani. Grazie a voi, buon proseguimento. E noi ci spostiamo in Germania perché sembra profilarsi l'ipotesi di una nuova grosse coalizione. Il congresso dell'SPD, infatti, i socialdemocratici tedeschi, ha accolto la mozione per colloqui aperti con Angela Merkel. Sergio Nava, qui accanto a me, ciao. Spiegaci meglio questa notizia, nel senso si potrebbe a questo punto sbloccare una situazione che è bloccata da molto tempo? Beh, si è bloccata a fine settembre, diciamo che si va verso una possibile, probabile reedizione della grossa coalizione tra CDU, CSU, quindi il partito Angela Merkel e del partito gemello bavarese, e socialdemocratici di Martin Schulz. Di fatto, al termine di 5 ore di dibattiti intensissimi, agguerritissimi, favorevoli, contrari, con uno Schulz molto debole. È uno Schulz, appunto, debole ma capace comunque di uscire vincitore dalla serata, perché poi dopo il voto a favore dell'avvio dei colloqui di grande coalizione è arrivato il voto sulla riconferma del suo mandato come leader SPD e ha vinto, è stato riconfermato l'81,9%, che non è il 100% di marzo quando sembrava l'uomo della provvidenza in grado anche di battere Angela Merkel, ma se teniamo conto ha perso 3 elezioni regionali, ha avuto un disastro, certo, elettorale con poco più del 20% a settembre, è riuscito anche peggio. Ha portato a casa il risultato. È chiaro che questa è anche l'ultima chance che si gioca Martin Schulz, perché in qualche modo ora dovrà vendere cara la pelle, dovrà dimostrare che la SPD ha fatto sì un'inversione AU, ha cambiato di 180 gradi la propria posizione post-elettorale quando ha detto noi non entriamo in nessun governo con la CDU, l'ha totalmente ribaltata. A questo punto però deve portare le proprie istanze e far valere i propri punti programmatici all'interno, certo, del prossimo governo di coalizione. Se non ci riuscirà, staremo a vedere, però chiaramente si va verso una probabile riedizione di un governo già c'è, perché la grossa coalizione ha governato per gli ultimi 4 anni. Bene, grazie a Sergio Nava che ci ha un po' spiegato che cosa si sta profilando in Germania. Sono i più forti nuotatori paralimpici italiani, tra i più veloci al mondo, campioni nella vita e nello sport. Quello che state sentendo è il trailer di Pesci Combattenti, un film documentario che racconta la storia di un gruppo di ragazzi campioni di nuoto paralimpico e della loro preparazione a Milano in vista dei Giochi Olimpici Paralimpici di Rio de Janeiro a settembre. Autore, peraltro, una nostra vecchia conoscenza, perché è il nostro collega del Sole 24 Ore, Riccardo Barlam. Alcuni di questi pesci combattenti sono in questi giorni in Messico, per questo ve l'abbiamo fatto sentire, dove si chiudono proprio in queste ore i mondiali di nuoto paralimpico, in cui l'Italia ha ottenuto davvero dei risultati straordinari. Allora ce li facciamo raccontare questi risultati straordinari dal CT della Nazionale di Nuoto Paralimpico, Riccardo Vernoli. Buonasera. Buonasera a tutti dal Messico. Ho parlato di risultati straordinari, ho esagerato? È proprio così? Beh, io direi storici, perché siamo appena adesso partiti dall'albergo per andare in piscina per l'ultima sessione gare. Siamo pronti ad affrontare le ultime sfide e ci giochiamo un terzo posto veramente importante e storico contro il Brasile. È un po' una sensazione particolare la nostra, parlando tra noi abbiamo pensato forse riusciamo a vendicare quella finale Italia-Brasile nel Messico 70, vediamo se riusciamo. E a ritirarci un po' sul morale, perché ancora dobbiamo riprenderci in effetti da quella brutta giornata. Ecco, lo accennavi, potremmo chiudere questa avventura davvero così storica, come diceva lei, al terzo posto nel medagliere. Tra l'altro dobbiamo spiegarla anche meglio, perché è vero che potremmo essere solo terzi, e si fa per dire, ma arriviamo con un numero di atleti molto inferiore. Assolutamente, abbiamo 11 ragazzi, 7 maschi e 4 ragazze. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare a casa due nostre fortissime atlete, e le altre compagini, diciamo quelle più competitive, quali gli Stati Uniti, la Cina e il Brasile, hanno una media di 25 atleti. Quindi la nostra squadra veramente si è compattata totalmente, ma noi sapevamo che erano ragazzi molto molto preparati. Riccardo, citaci qualche nome, so che è difficile, insomma sono 11 gli atleti, raccontaci qualcuna di queste imprese straordinarie in sintesi. Diciamo, se devo parlare di un uomo, una donna, penso un uomo, Federico Mornacchi, già vincitore della medaglia d'oro dei 200 misti a Rio 2016, ha fatto ben 6 gare, tutte con una conquista delle medaglie, e Carlotta Gilli, una nuova entry, una ragazza che ha fatto 6 competizioni con 5 medaglie d'oro e una d'argento. Ma sono la punta di un iceberg, perché non solo in riferimento agli 11 convocati, ma questi ragazzi rappresentano tutto il movimento paralimpico della Federazione Italiana Nuovo Paralimpico. Di cui noi davvero andiamo orgogliosi, soprattutto in questo momento in cui appunto in altri sport, insomma, non ci sembra tra l'altro sport in cui si investono anche molti più fondi, diciamocelo, no? Non hanno dei grandi risultati, invece i risultati sono arrivati dal Messico. Allora noi vi lasciamo alle ultime gare, mi raccomando, concludete il miracolo. Grazie, seguiteci sulla streaming della Rai, e faccio un in bocca al lupo ai miei ragazzi che sono qui presenti e vi salutano dal Messico. E tu salutaceli tantissimo da parte degli ascoltatori di Radio 24 e di tutta la nostra radio, perché è davvero un'impresa straordinaria di cui sicuramente torneremo a parlare poi anche nei prossimi giorni. Grazie al CT della Nazionale di Nuoto Paralimpico Riccardo Vernole dal Messico. Bocca al lupo! Crepi, Forza Italia! Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Dopo lo strappo di Trump su Gerusalemme, 2 razzi sono stati lanciati da Gaza verso Israele, che ha risposto sparando colpi di tank verso postazioni di Hamas. 8 le persone indagate per il blitz di Forza Nuova ieri a Roma sotto la sede del quotidiano La Repubblica. L'ordigno rudimentale esploso all'alba davanti alla stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni, senza causare feriti. Gli anarchici del FAI rivendicano l'azione. Fa parte di una setta, a parlare così la madre del 27enne arrestato per omicidio volontario e tentato omicidio per la morte di 3 familiari e l'avvelenamento di altri parenti a Nova Milanese. Nel computer trovati gli ordini della sostanza velenosa, il tallio. A Suzzara, in provincia di Mantova, una donna di 39 anni ha ucciso i figli di 5 e 2 anni, poi ha tentato di togliersi la vita. Sembra che in passato abbia sofferto di problemi psichici. Istat, record di occupati a termine nel terzo trimestre dell'anno, sono 2,8 milioni, è il picco più alto dal 1992. Disoccupazione stabile all'11,2% e diminuisce il numero degli scoraggiati. L'Andrea Chenet di Umberto Giordano alla prima della Scala a Milano, non ci sono le più alte cariche dello Stato per altri impegni, ma la sottosegretaria Boschi entra dal retro. E infine Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese del Real Madrid, ha vinto il suo 5° pallone d'oro, eguagliando il record di Messi, l'argentino del Barcellona. Buffon si piazza al 4° posto. Ed ora torniamo su questa vicenda che ha davvero dell'incredibile: l'arresto di Mattia Del Zotto, 27 anni, con l'accusa di aver avvelenato diversi membri della sua famiglia, 3 dei quali peraltro sono morti, si tratta dei nonni e della zia. Le prove sono ormai inequivocabili, nel suo computer sono stati trovati gli ordini di acquisto del taglio, questo veleno appunto utilizzato per uccidere. Tutto questo è successo a Nova Milanese, proprio oggi la svolta, siamo in provincia di Monza e noi ne parliamo con il collega del Corriere della Sera, Cesare Giuzzi, che ringraziamo. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, ho detto che è una storia incredibile, perché davvero più oggi si leggevano le notizie in redazione, più questa storia sembrava, non so, un romanzo di Agatha Christie. Diciamo, c'è poco da sorridere, perché è una vicenda che ha portato 3 persone all'altro mondo e altrettante sono ancora in ospedale. Soffermiamoci, Cesare, su questa, la figura di questo ragazzo, Mattia del Zotto. Sì, Mattia è un ragazzo dalla doppia vita, in sostanza, da come ci viene raccontato anche dai genitori che mettono a verbale queste le loro dichiarazioni davanti ai carabinieri. Quando ormai gli inquirenti si sono accorti che evidentemente esiste un avvelenatore, che non si è trattato di un evento accidentale, stringono il cerchio sulla famiglia ed emerge un po' la figura di questo ragazzo che fino all'età di 25 anni ha un lavoro, lavora come magazziniere, poi perde improvvisamente questo lavoro e si chiude in un isolamento, probabilmente accompagnato anche da problemi depressivi che in quel momento non vengono forse presi adeguatamente in considerazione. Uh-huh. Il ragazzo, tant'è che il ragazzo non sarà mai in cura, né sarà mai visitato da nessuno psicoterapeuta, si chiude improvvisamente in camera, smette di uscire con i pochi amici che già aveva, perché era sempre stato un ragazzo introverso. Va solo in palestra, no? Sembra che vada solo in palestra, sì. La sua attività, insomma, diciamo, il suo l'unico motivo per uscire di casa fosse quello, il che non vuol dire nulla, evidentemente. No, anzi, poi progressivamente smette anche con questa passione e di casa non uscirà più, vivrà praticamente in tuta e raccontano i genitori, usciva dalla sua stanza solo per mangiare, al pranzo e la cena. Stava moltissime ore davanti al computer ed inizierà anche ad abbracciare, insomma, dei, possiamo definirli ormai dei deliri mistici e religiosi, perché la madre, che lo racconta a verbale, dice che il ragazzo ha iniziato a vedere dei video, a frequentare siti ultracattolici nei quali si scagliava contro la figura di Papa Francesco, che era visto come un pontefice un po' troppo aperto rispetto alle regole della Chiesa, e soprattutto poi lui stesso ad affermarlo davanti ai carabinieri dice di aver abbracciato la religione ebraica negli ultimi 3 mesi. In realtà la mamma dice che almeno ha una sua visione, che sicuramente non è una visione approfondita, ma la visione di una mamma, dice che questo ragazzo sembrava più posseduto da una setta. Esatto, ha parlato di una setta, secondo te cosa significa? Ma in realtà non ci sono prove, e i carabinieri non hanno raccolto prove di un suo avvicinamento a una setta né di contatti con altri personaggi che in qualche maniera potessero averlo plagiato. Sembra proprio che abbia fatto tutto da sé sembra che il suo fosse veramente un delirio legato a delle strane fissazioni, manie, così, sì, insomma, c'era qualcosa che gli era scattato nella testa, sicuramente non di particolarmente giusto, e peraltro non molto aiutato neanche dai genitori, perché mi rendo conto che possa essere davvero difficile fronteggiare situazioni di questo tipo, però invece di rivolgersi a personale specializzato, uno psicologo, o comunque far intervenire persone che di queste cose ne capiscono, si sono rivolte a un cromoterapeuta, così hanno detto, quindi non sono stati in grado molto di aiutarlo. Ma quello che volevo chiederti, si è capito un po' meglio, al di là dei deliri di questo ragazzo, il perché poi prendersela con i nonni? Ricordiamo che sono morti i nonni, è morta una zia, altri parenti sono in ospedale. Perché se l'è presa con loro? Si è riuscito a capire qualcosa? No, in realtà non si è compreso. Lui ha usato un'espressione particolare davanti ai carabinieri, peraltro in un momento nel quale non era ancora assistito dall'avvocato. Ha detto di avere in qualche maniera punito i membri della sua famiglia perché erano degli esseri impuri. Nella realtà lui, ascoltato dai carabinieri poco dopo la morte dei parenti, come erano stati interrogati altri familiari, aveva detto di non avere particolari rapporti di affetto verso i propri parenti, ma neanche verso i propri genitori. Lui usa proprio un'espressione, dice: io i parenti me li sono trovati e non me li sono scelti, e quindi non sento la necessità di avere un legame affettivo con queste persone. Ciò nonostante, gli stessi zii, gli stessi nonni materni raccontano che comunque il ragazzo, pur essendo molto schivo, non aveva mai avuto atteggiamenti ostili né c'erano mai stati motivi di conflitto. Sì, non sembrava violento, diciamo. Cesare, una storia di cui sicuramente si continuerà a parlare, perché ci sono molti aspetti ancora da chiarire, al di là delle questioni poi che riguardano, come dire, il delirio di questo ragazzo, ma soprattutto capire un po' come non si sia riuscito ad aiutare questa famiglia poi a prevenire quanto successo, o no? Purtroppo sì, purtroppo il tema di fondo è da un lato il problema del disagio psichico, e noi lo vediamo molto spesso nei fatti di cronaca che sono avvenuti negli ultimi anni a Milano e in Lombardia, ma un po' in tutta Italia ci sono state tante situazioni simili, anche in Brianza, che hanno riguardato ragazzi giovani. Forse da un altro lato, ed è questo che un po' sconvolge, c'è stata una sorta di protezione da parte dell'intera famiglia rispetto a questo ragazzo. Gli stessi inquirenti hanno detto: la figura di Mattia ci ha inquietato nel momento in cui ne siamo venuti a conoscenza delle manie che aveva questo ragazzo e dei suoi atteggiamenti. Ciò nonostante, all'inizio, quando comunque era stato comunque ipotizzata la possibilità che vi fosse una mano dolosa, che quindi vi fosse comunque un avvelenatore, nonostante i carabinieri stessero ancora cercando una causa possibile accidentale. Sì, si era parlato di un topicida che potesse essere finito per errore, eccetera. Poi insomma si è capito che invece c'era del dolo, sicuramente. Però nessuno aveva parlato di questo ragazzo. Mi fai pensare all'altro caso che purtroppo stiamo raccontando oggi a Suzzara, in provincia di Mantova, dove una donna di 39 anni ha ucciso i figli di 5 e 2 e poi ha tentato di suicidarsi, e anche lei sembra che in passato abbia sofferto di problemi psichici. Questo evidentemente insomma non si riesce a trovare una rete che possa aiutare famiglie di questo genere. Cesare, ti ringrazio molto per averci raccontato meglio questa storia. Grazie mille al collega Cesare Giuzzi del Corriere della Sera. Grazie a voi e buonasera. Grazie mille. Cambiamo per un attimo argomento, perché purtroppo una brutta notizia: solo 3 settimane dopo la morte del velocista francese David Poisson durante un allenamento, è morto in Canada, questa volta durante una gara, Max Burkhardt, 17 anni, giovane talento della nazionale tedesca, caduto mentre partecipava a Lake Lewis ad una discesa della Coppa Nordamericana. E oltre 7 milioni, secondo Federalberghi, sono gli italiani in viaggio in questo ponte dell'Immacolata, il 6% in più rispetto allo scorso anno, per un giro d'affari che viene stimato intorno ai 2 miliardi e mezzo. È un buon momento per il nostro paese, se è vero che quasi l'88% di chi approfitterà del ponte per fare una vacanza resterà in Italia per visitare luoghi d'arte oppure per andare in montagna. Allora, proprio in montagna, alberghi e impianti sono in questi giorni al gran completo per un turismo fatto di sciatori che arrivano in massa qualche ora o qualche giorno, poi se ne scappano. Un modello di ripartenza della stagione invernale che non piace a tutti, perché la montagna è anche fatta di ampi spazi, silenzi, ritmi rallentati. Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega con le 8 montagne, vive 6 mesi all'anno in Val d'Ayas, un posto bellissimo in Val d'Aosta, e al microfono di Dario Ceccarelli suggerisce un approccio diverso. Ma forse il problema è a monte, nel senso che pensare che la montagna riparta vuol dire pensare che la montagna nelle mezze stagioni non esiste. Forse questo bisognerebbe dire, cioè cercare di stabilire una relazione con il luogo in cui sei, che significa sia con il paesaggio sia con le persone. Questo è quello che spesso gli sciatori non fanno, che mi fa un po' arrabbiare con loro, nel senso che spesso è un'invasione un po' violenta, non tanto perché gli sciatori sono tanti quanto perché arrivano, sciano e se ne vanno. Sembrano proprio vivere la montagna come un bene di consumo, come un prodotto. Un prodotto. Cosa suggerisce Paolo Cognetti a chi cerca un rapporto diverso con la montagna? Ma forse una volta di provare a fare un giro nel bosco, con la neve anche o senza neve, dipende da come sarà l'inverno, ma insomma la montagna d'inverno non è solamente la montagna delle piste, ma è anche un luogo dove il bosco continua la sua vita, dove per esempio è possibile incontrare gli animali selvatici o altri camminatori o i montanari che se ne vanno a fare un giro. Si può andare a piedi oppure noleggiare un paio di ciaspole, che sono racchette da neve molto economiche, e provare a vedere che cosa c'è accanto alle piste, spesso appena fuori dai paesi, nei boschi. Lì ci sono tante scoperte da fare. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tensione altissima in Israele e nei territori palestinesi dopo l'annuncio di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Due razzi sono stati lanciati da Gaza verso Israele, che ha risposto sparando colpi di tank verso postazioni di Hamas. In Germania si va verso una nuova grosse coalizione. Il congresso dell'SPD, i socialdemocratici tedeschi, ha accolto la mozione per colloqui aperti con Angela Merkel. 8 le persone indagate per il blitz di Forza Nuova ieri a Roma sotto la sede del quotidiano La Repubblica. L'ordigno rudimentale esploso all'alba davanti alla stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni senza causare feriti. Gli anarchici del FAI rivendicano l'azione. Fa parte di una setta, a parlare così, la madre del 27enne arrestato per omicidio volontario e tentato omicidio per la morte di 3 familiari e l'avvelenamento di altri parenti a Nova Milanese. Nel computer trovati gli ordini della sostanza velenosa, il tallio. E a Suzzara, in provincia di Mantova, una donna di 39 anni ha ucciso i figli di 5 e 2 anni, poi ha tentato di togliersi la vita. Sembra che in passato abbia sofferto di problemi psichici. Gli ispettori del Ministero del Lavoro nella sede italiana di Amazon a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. L'intervento, si spiega, pianificato nell'ambito delle ispezioni nel settore della logistica e della movimentazione merci. E infine Cristiano Ronaldo, l'attaccante portoghese del Real Madrid, che ha vinto il suo 5° pallone d'oro, eguagliando il record di Messi. E naturalmente non potevamo esimerci oggi di parlare di questa bellissima prima della Scala. Oggi è una grande giornata di festa, no? Per Milano, come tutti gli anni, nel giorno di Sant'Ambrogio si celebra il tradizionale rito della prima della Scala. Quest'anno un atteso ritorno, quello dell'Andrea Chenier, di Umberto Giordano. È stata lì per noi Marta Cagnola, che poi si è tolta il vestito tutto elegante, è venuta, ho fatto una corsa, è venuta qua perché ci deve raccontare tutto. Allora, com'è andata? A me è piaciuta molto al pubblico. Come sempre in questo momento c'è la guerra dei minuti di applausi. 10. Allora, l'agenzia dice 10 minuti. 10, noi ci atteniamo all'agenzia ANSA, sono tanti. Qualche isolata contestazione, ma veramente isolatissima. Insomma, è andata bene. Questa Andrea Chenier ha apprezzato questo connubio Chailly Martone, quindi direzione e la regia scenica di Mario Martone. Molto molto applauditi i cantanti, molto applaudita Anna Netrebko, che ormai è una sorta di icona della lirica, molto applaudito anche l'altro protagonista nel ruolo di Gerard, Luca Salsi. E la sfida però, cara Piera, era quella dell'altra voce, Chenier, che era Yusif Eviazov. E tu mi dirai, ma perché la sfida era quella di Yusif Eviazov? Perché Yusif Eviazov nella vita è il marito di Anna Netrebko. Io lo sapevo, ma non l'ho detto, c'era il gossip, perché non ti volevo togliere il gusto di dirlo. E quindi tutti dicevano, ma sarà all'altezza? O, detto tra noi, sarà stato portato dalla moglie. Ecco, invece è andato molto bene, è stato applaudito anche lui. Quindi anche Eviazov, quindi una bella coppia. Bellissima coppia. Allora, tutti contenti tranne per un aspetto. Allora, un po' criticato il fatto che mancassero un po' le autorità nel palco reale questa sera. Defezioni previste, quella del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, è arrivata ieri anche la defezione del Presidente del Senato. C'erano dei ministri, perché c'era Maria Elena, molto bella, Tu ti riferisci a Maria Elena Boschi, che non siamo riusciti però a vedere, l'abbiamo vista in fotografia, lei praticamente è arrivata, lo si sapeva, dribblando il tappeto rosso, è arrivata dal retro e dal retro se n'è andata. Con il padre? Con il fratello. Ah, ecco. Con il fratello, e il vestito pareva molto molto molto bello. Però i ministri c'erano, c'era il ministro De Vincenti, c'era il ministro Padoan e c'era il ministro Franceschini, che ha detto, è ancora una volta la prova del fatto che vale la pena investire in cultura. Beh, quello che ha fatto il governo, che ha fatto il Parlamento, c'è stato un investimento molto forte nella cultura, finalmente, dopo anni di tagli dolorosi, e il ritorno c'è. In una giornata, una serata come questa, come tutti i 7 di dicembre, ci sono i riflettori di tutto il mondo accesi che guardano l'Italia, guardano Milano, guardano la Scala, guardano l'eccellenza italiana. Dobbiamo esserne molto orgogliosi. Ho capito adesso che quella della Boschi era una battuta, Piera. Insomma, sì, ci stavo... No, non l'avevo colta al momento. Allora, mancanza dei vertici delle istituzioni. Come previsto, come però, previsto, solo Grasso è stato un po' Maroni dice, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, dice, ah beh, insomma, Roma ci snobba. Allora, il sindaco Sala, che poi alla fine tu dici, è stato molto, molto contento, dice, in realtà mi hanno chiamato tutti e comunque una grande prima per i milanesi. Beh, mi pare che si fosse atteso dai melomani, dagli esperti, ma anche dalla città. Vedo che c'è un'atmosfera straordinaria. Certamente c'è un grande direttore, un grande regista, un grande cast. Meglio di così, le premesse sono ottime. Vediamo poi. Forse un po' di rammarico per il venir meno di qualche presenza istituzionale. Sì, ma poi credo che la gente sia qui per godersi lo spettacolo, la serata. Mi hanno chiamato tutti, sono ovviamente tutti impegnati in questo momento politico delicato. A dicembre accade sempre qualcosa. Beh, abbiamo tre ministri con noi, un sottosegretario, per cui no, va bene così, va bene così. Direi che però c'è una grande partecipazione. Sala era contento lo stesso, dunque, anche senza tanti ministri. Di solito ci sono sempre contestazioni fuori, però ormai non è più periodo, no? No, devo dire che noi rimaniamo... Anche perché ci sono talmente tanti sistemi di sicurezza che forse... Sì, ecco, noi rimaniamo chiusi dentro più o meno dalle 4 del pomeriggio in poi, quindi non viviamo l'atmosfera della piazza, però da fuori non ci arrivavano echi di contestazione. Effettivamente le misure di sicurezza sono tantissime. Piazza della Scala, per chi venisse a Milano... Blindata. Sì, assolutamente blindata. Si sta veramente molto lontani dalle tiratori transenne. Scelti sui tetti, sì, insomma, sì, sì, siamo in un periodo in cui si ha paura che qualsiasi avvenimento che richiami tanta gente naturalmente possa essere vittima di qualche azione particolare, azione violenta. Allora Marta, io ho visto delle immagini, perché in radio è un po' complicato mostrare le immagini, ho visto anche tante belle signore vestite bene, sì, anche tanti bei signori, ma anche qualche mese improponibile. Sì, diciamo che, dire a te. Che qualcuno insomma si è fatto prendere un po' la mano. Beh, sai cosa c'è, magari alla Scala si va una volta nella vita e si può anche esagerare. Bisogna scegliere una mise che non passi inosservata e che rimanga nel ricordo. Qualcuno ci è riuscito. Forse invece la più amata, la moglie del sovrintendente Pereira, la splendida moglie e giovanissima moglie del sovrintendente Pereira, che è anche stilista, quindi aveva questo meraviglioso abito rosso particolarmente apprezzato. Vedremo le fotografie su internet. Va bene, anche questa prima della Scala è andata. Marta è sopravvissuta anche quest'anno, più o meno. Grazie mille, e si chiude qua Effetto Notte. Un saluto da Maria Piera Ceci, grazie a Cristian Goldoni in regia, a Paolo Corleoni sempre lì di là dal vetro. Noi ci risentiamo fra pochissimo per i titoli.